La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. L'articolo 53 è probabilmente uno degli articoli meno simpatici a noi cittadini, in quanto è l'articolo che impone la capacità contributiva, è l'articolo che riguarda le tasse. Tuttavia, l'articolo 53, se lo leggiamo con attenzione, pone dei principi molto importanti. Innanzitutto, il dovere contributivo, il dovere tributario spetta a tutti, quindi non solo i cittadini, ma tutti coloro che producono redditi, devono concorrere alle spese pubbliche. Quindi la finalizzazione è chiara, il dovere tributario esiste a fini di solidarietà generale, cioè in maniera da poter affrontare la spesa pubblica. La Costituzione pone due regole molto importanti sul dovere tributario: la limitazione in ragione della propria capacità contributiva e i criteri di progressività. Cosa significa? Innanzitutto, ciascuno deve pagare in ragione della sua propria capacità contributiva, cioè deve essere misurato il sistema tributario sulle reali capacità dei singoli, per cui la tassazione deve essere differenziata e differenziata in maniera ragionevole. Quindi devono essere garantite soglie di esenzione, devono essere garantiti i minimi vitali, proprio perché la capacità contributiva non deve andare a detrimento della esistenza umana della persona. Ma poi il sistema tributario deve anche andare a cercare di combattere le discriminazioni e soprattutto le discriminazioni verticali della ricchezza. Cosa significa? Significa che il sistema è improntato a criteri di progressività. Progressività significa che i più ricchi devono pagare di più, i più poveri devono pagare meno. È molto importante perché in Assemblea Costituente si discusse a lungo se il sistema tributario dovesse essere proporzionale o progressivo. Proporzionale significa che tutti pagano la stessa misura. Ad esempio, come ci capita col biglietto dell'autobus, tutti paghiamo lo stesso biglietto dell'autobus senza alcun rilievo sulla nostra capacità. Invece la Costituzione impone un sistema progressivo e questo vale per le imposte generali, penso soprattutto all'IRPEF, quindi alle grandi imposte, che vengono pagate in ragione del reddito, per cui gli scaglioni di imposta, le aliquote, salgono col crescere del reddito. Questo significa progressività e questo è un sistema che si ispira alla piena redistribuzione sociale, perché giustamente la finalità della Repubblica Italiana è sancita nell'articolo 3, dove viene posta, come ben ricordiamo, la piena eguaglianza sostanziale, cioè l'impegno dello Stato di favorire la partecipazione piena e compiuta di tutti alla gestione della vita repubblicana. Quindi anche attraverso un sistema tributario progressivo si favorisce l'emancipazione e la crescita delle classi più disagiate.